Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, 18:34, 800 24 00 24. Avete sentito una sigla natalizia? L'ho sentita per la prima volta. A voi il giudizio, però ci sono i numeri da darvi. Il numero verde ve l'ho già detto: SMS 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo a sentire il telegiornale del secondo canale della Rai delle 18:30. Italia nella morsa del maltempo, disagi e interruzioni su molte strade, rafforzata l'allerta in Lazio e a Roma, il Tevere cresce di 2 cm ogni ora. Elezioni regionali in Abruzzo, il candidato del Popolo della Libertà Gianni Chiodi in vantaggio su Carlo Costantini del centrosinistra, crolla l'affluenza al voto, meno 16% rispetto alle precedenti elezioni. In crescita le liti tra vicini provocate dalle spezie della cucina etnica. Il pollo al curry provocherebbe il 27% delle diatribe condominiali. Gli amministratori dicono dal codice civile nessuna soluzione. È morto in una clinica di Monaco di Baviera Horst Tappert, l'interprete indimenticabile dell'ispettore Derrick, protagonista per ben 24 anni della fortunata serie poliziesca TV. Aveva 85 anni. Bene, per quello che mi riguarda la notizia del giorno, drammatica, tragica, è questa: la morte dell'ispettore Derrick, che ci ha accompagnato, almeno per quelli della mia generazione, per tutti questi anni. Un'altra cosa invece riguarda la giustizia. Purtroppo si parla di tavoli, di commissioni. In Italia, quando non si vuole fare qualcosa, si dice apriamo un tavolo, apriamo una discussione, una commissione con gli esperti, allora non si arriva da nessuna parte. Studio aperto. Sale a 2 il bilancio delle vittime dell'incidente di Cesano Maderno provocato da un giovane ubriaco alla guida. A Lecce caccia al pirata che ha ucciso un ventenne in bicicletta. In arrivo norme più severe per chi beve. Patente ritirata anche con un tasso alcolemico minimo. La pioggia non si ferma, Italia sott'acqua da nord a sud, ponti chiusi, frane, circolazione in tilt, ancora neve in montagna, la piena del Tevere investe il litorale, allagamenti e danni, dicembre record per le precipitazioni. L'Abruzzo al voto, Chiodi, candidato del PDL in vantaggio sul rivale della sinistra Costantini, scrutinio in corso, a votare poco più del 50% degli elettori. Milano-Roma, sfida della velocità con i nostri cronisti a bordo. Al traguardo del Colosseo, primo l'aereo in 4 ore e 5 minuti. Il treno Freccia Rossa arriva dopo un quarto d'ora, ma costa 200 euro in meno. Diventano un caso mondiale le due scarpe lanciate da un giornalista iracheno contro Bush. Il reporter rischia 7 anni di galera. La gente scende in piazza. Mai così rumore per una scarpa dall'epoca di Khrushchev. Guerra del Kerry, il 27%. Beh, certamente l'episodio della scarpa è uno dei fatti del fine settimana. A me pare assurdo rischiare comunque la si pensi sulla vicenda irachena, su Bush, eccetera, eccetera, rischiare 7 anni addirittura per aver tirato una scarpa addosso al presidente degli Stati Uniti. Mi pare qualcosa di esagerato. 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta, come sapete. E sapete anche che l'Italia è il paese dell'immobilismo, il paese in cui non cambia nulla, in cui si muove pochissimo, a parte i treni che adesso si muovono più veloci dopo tanti anni. Ed è anche il paese del benaltrismo, perché il ministro Brunetta, secondo me, non devo per forza difendere il ministro Brunetta, ha detto una cosa in assoluta solitudine comunque all'interno del centrodestra, anche Berlusconi è rimasto un po' distante, ha detto una cosa assolutamente condivisibile, cioè che l'età pensionabile delle donne va equiparata a quella degli uomini. Apriti cielo, naturalmente, non solo per quello che riguarda l'opposizione, dove pure ci sono delle persone favorevoli alle posizioni a quello che dice Brunetta, ma anche all'interno della maggioranza. Sacconi è contrario, lo stesso Berlusconi ha detto no, ma in questo momento è meglio non toccare le pensioni. Ci sono alcuni temi che sono assolutamente tabù in Italia, non si capisce perché. Questo al di là del fatto che l'Unione Europea vuole o non vuole la parità delle pensioni tra uomo e donna. Brunetta. Noi abbiamo una sentenza della Corte di Giustizia a cui dobbiamo rispondere, che riguarda sulla perequazione dell'età di pensionamento tra maschi e femmine a partire dalla pubblica amministrazione. Stiamo ragionando a questo riguardo, l'obiettivo non può che essere quello di pareggiare l'età di pensionamento. la mia previsione è che, come per la giustizia, non si arriverà a nulla. Uno dei leader sindacali più in voga in questo momento, Renata Polverini dell'UGL, donna naturalmente, la quale dice no, assolutamente, prima bisogna fare, se mai si dovesse fare questa cosa, prima ne vengono altre, caso abbastanza tipico di benaltrismo. Il ministro Brunetta evidentemente è già stato smentito dal Presidente del Consiglio, che ieri ha detto che non è opportuno intervenire di nuovo sulle pensioni, tantomeno equiparando l'età delle donne che già sono in sofferenza per entrare, per permanere e per reinserirsi nel mercato del lavoro. Semmai occorrerà occuparsi delle donne che fanno figli in età lavorativa, attribuendo loro un bonus previdenziale per consentirgli, su loro richiesta, di andare in pensione alla stessa età oppure uscire prima con un assegno pensionistico magari un po' più alto. Insomma, il ragionamento è sempre lo stesso. Sì, potrebbe andare bene, però prima bisogna fare altre cose. Emma Bonino, invece, che è, come sapete, leader radicale, dice che è una cosa assolutamente da fare, quella del... Poi parla anche del fatto che gli stipendi tra uomo e donna sono diversi e dunque bisogna intervenire anche su quello. Sentiamo. Penso che l'idea di mandare in pensione le donne qualche anno prima come risarcimento di tutte le discriminazioni che soffrono nella vita lavorativa, cioè lo status quo, è una pessima idea. Penso che le donne hanno bisogno di essere equiparate, certo, nella pensione, ma equiparate quando devono combinare lavoro e figli, in un paese che non ha asili nido, che non ha reti di assistenza e in cui l'accesso delle donne al mercato del lavoro è veramente penoso. Quindi sì all'equiparazione, ma anche all'equiparazione dei salari e delle carriere. Va bene, questa era Emma Bonino, 800 24 00 24, un ascoltatore da Pescara. Antonio ci scrive subito, sapete che si è votato in Abruzzo, il candidato del centrodestra è in vantaggio, ma siamo appena all'inizio dello scrutinio, come avete seguito durante lo speciale tra le 18 e le 18.30, il dato certamente rilevante è quello dell'astensione. Allora, questo ascoltatore da Pescara ci scrive, non ho votato alle elezioni in Abruzzo, posso considerarmi un antidemocratico? No, assolutamente, in altre democrazie un 53% non viene considerata un'eresia, una cosa di cui discutere. Certo, fa abbastanza impressione perché in Abruzzo fino a poco tempo fa il tasso di partecipazione al voto era sicuramente più alto, in linea peraltro con tutta l'Italia. A proposito di Abruzzo, commenteremo più avanti quello che potrebbe succedere nel corso dei giornali radio con tutti gli aggiornamenti. Nel fine settimana l'ex governatore del Turco ha detto due cose. Primo, che non ha votato certamente per il candidato del Partito Democratico dell'Italia dei Valori della sinistra, che è Costantini, e poi che potrebbe accettare una candidatura del PDL, dunque del centrodestra, alle elezioni europee, qualcosa che ci aveva anticipato qualche settimana fa. Sentiamo. Ma io ho sentito un mucchio di gente, addirittura il direttore dell'Unità dice che Berlusconi ha fatto questa cosa in realtà perché mi ha già offerto un seggio al prossimo Parlamento europeo. No, conoscendolo lei non si candiderà per al Parlamento europeo. Lascia stare quello che farò. Forse sono troppo ingenuo, perché avevo detto, conoscendo Del Turco e la sua esperienza politica, il mondo da cui viene, però il carcere cambia molto le persone e le esperienze evidentemente segnano a fondo le persone. D'altra parte, Del Turco è stato, diciamo la verità, abbandonato dal Partito Democratico. Beltroni, in un porta a porta di qualche tempo fa, disse perché non ha chiesto scusa ai suoi elettori per quello che ha fatto, sostanzialmente dicendo Del Turco è colpevole, diciamo la verità. Ho visto quello che ha detto Del Turco oggi, io mi sarei immaginato che Del Turco avesse in primo luogo, come posso dire, detto due parole a quegli elettori che gli avevano dato la fiducia in tanti nel corso degli anni passati, ma il mondo è fatto così. Insomma, il carcere e le esperienze cambiano e anche uno come Del Turco può cambiare campo politico in maniera drastica, lo ha fatto capire, potrebbe candidarsi alle europee per il PDL. 800 24 00 24. Prendo una notizia pubblicata sul Sole 24 Ore di sabato scorso. Sarebbe ormai a un passo dalla nomina di numero uno di Team Brasil non è una cosa da poco, Luca Luciani, classe 67, attuale direttore generale del comparto Domestic Mobile Services, l'uomo della famosa gaffe sul Napoleone che vinse a Waterloo. Oggi non parlo di Alessandro, parlo di Napoleone. Napoleone a Waterloo, una pianura in Belgio, fece il suo capolavoro. Tutti lo davano per fatto, per cotto, per la supremazia degli avversari, c'aveva cinque grandissime nazioni contro, delle forze in campo, però strategia, chiarezza delle idee, determinazione, forza, Napoleone fece il suo capolavoro a Waterloo. Allora, le facce scettiche, le facce di... non servono un cazzo. Questa è una delle aziende più belle che esiste al mondo. E allora, forte di questa convinzione, noi dobbiamo dimostrare che questo è un fatto. Piangersi addosso non serve assolutamente a niente. E come nel momento duro, dagli spalti la gente ti dice la squadra non gira, non corrono. Bene, correte di più, stringete i denti, prova di carattere. E allora dagli spalti vi applaudiranno, perché voi andrete e segnerete, come fece Napoleone. Napoleone a Waterloo era la seconda gaffe su una precedente gaffe. Non vogliamo ancora infierire, leggo ancora dal Sole 24 Ore, non è ufficiale, ci sarebbe però una duplice volontà dell'azienda: da un lato collocare un uomo con grande capacità di fare squadra, come recita una fonte, nell'avamposto latinoamericano più importante per il gruppo, dall'altro permettere al dirigente di iniziare una nuova esperienza professionale allontanandolo per un po', come dice qualche maligno, dalla piazza italiana, perché possa tornare con una reputazione, se mai ne avesse bisogno, nuova di zecca in Italia, magari con un incarico di maggior prestigio. Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale.it, buonasera. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, non sappiamo ancora come andrà a finire in Abruzzo, c'è un vantaggio abbastanza chiaro da parte del candidato del Partito del Popolo e della Libertà, che è Gianni Chiodi. Quello che mi sembra di poter dire, però, al di là del dato sull'affluenza, che naturalmente era abbastanza previsto, un po' perché sono elezioni un po' distanti dalle altre elezioni, un po' per una stanchezza naturale, un po' per quello che è successo in Abruzzo, non mi scandalizzerei più di tanto, c'è da fare una riflessione però. Quando c'è una situazione di polarizzazione abbastanza chiara, cioè uno contro l'altro, e una scelta da fare molto chiara, il resto è poca cosa. Il risultato degli altri, un po' come è avvenuto alle scorse elezioni politiche, quando c'è una coalizione da una parte, una coalizione dall'altra, una terza via è complicata. I risultati degli altri candidati, il candidato dell'UDC, il candidato della destra, che è molto forte in Abruzzo, stanno là a dimostrarlo, no? Beh, io trovo che questa sia un'evoluzione molto positiva del sistema italiano, nel senso che si va verso la stabilizzazione, si dovrebbe andare verso la stabilizzazione di un sistema bipolare che sicuramente è più limpido, è più chiaro, è più comprensibile per gli elettori e garantisce maggiore stabilità dei governi. La preoccupazione semmai è un'altra, che dopo questa serie positiva in cui, come tu dicevi, si è affermato questo tipo di scelta che esclude le terze posizioni, noi stiamo andando incontro al voto europeo che non soltanto vedrà le terze posizioni, ma anche le quarte, le quinte, le settime e le ottave. E questo è più preoccupante. Assolutamente, perché non si è voluta cambiare la legge elettorale e probabilmente si andrà a votare con quella attuale, in cui c'è la possibilità che un partito dello 0,8 riesca a ottenere un deputato. Ecco, il risultato dell'Abruzzo dovrebbe far riflettere quelli che in questi giorni sono così restii a mettere mano alla riforma della legge elettorale per europee, perché il risultato dell'Abruzzo dimostra appunto che la gente, che i cittadini si sono abituati a scegliere o di qua o di là tra due posizioni alternative. Rigettarli di nuovo, ributtarli nel marasma delle 25-30 liste è una violenza che si fa contro i cittadini. Ci sono dei riflessi nazionali se i risultati dovessero essere confermati? Mi sembra che siamo nel campo del più o meno la grande sorpresa sarebbe stata la vittoria del centrosinistra, cioè del PD più Italia dei Valori. Dobbiamo ricordare che non è solamente PD più Italia dei Valori, perché la sinistra in questo caso, cioè i Verdi, Rifondazione, erano all'interno appoggiavano Costantini. Bah, insomma, effettivamente se ci fosse stato un colpo di scena e se nonostante il cataclisma che ha portato al crollo della giunta di centrosinistra guidata da Del Turco avesse vinto il PD, certamente questo avrebbe dato fiato ad un partito che in questo momento è in grandissime difficoltà e soprattutto al suo leader, che viene in questo momento giudicato come in una situazione di grandissima debolezza. Se invece si confermano le previsioni della vigilia, quelle di tutta la campagna elettorale, in cui a vincere sarà il candidato del PDL, ecco, sì, avrà la conferma di una situazione di difficoltà del PD e l'effetto Berlusconi, che continua a essere un effetto di grandissimo traino sull'elettorato quando ci mette la faccia, al contrario di quello che è successo qualche settimana fa, qualche mese fa in Trentino. Un'altra considerazione riguarda la questione delle pensioni che ha tirato fuori il ministro Brunetta, devo dire abbastanza isolato anche all'interno del centrodestra. È vero che è un tema trasversale, abbiamo sentito anche voci di centrosinistra, pure autorevoli, che hanno detto che è una cosa che si può fare, però mi sembra un tipico caso di benaltrismo, perché anche quelli nel centrosinistra e nel centrodestra favorevoli a quello che ha detto Brunetta, che mi sembra semplicemente una cosa di buonsenso, dicono, hanno sempre aggiunto, ma sì, si può fare, però prima bisogna parificare gli stipendi, prima bisogna trovare i soldi per gli ammortizzatori sociali per le donne, poi come facciamo con le casalinghe, insomma non si riesce mai a rompere i tabù in Italia, no? Sì, c'è un grandissimo tabù che ha sicuramente a che fare con questo atteggiamento del benaltrismo, ma io credo che soprattutto dalle parti del governo ci sia anche una forte dose di scaramanzia. Parlare di pensioni porta iella in Italia, i governi di centrodestra lo sanno meglio degli altri, e all'interno del governo in questo momento la sola parola riforma delle pensioni fa venire i brividi, un po' fa lo stesso effetto che nominare l'articolo 18, la famosa riforma del mercato del lavoro che portò poi al crollo del primo governo Berlusconi. Affrontare, dopo aver visto l'assaggio delle piazze piene di studenti contro la riforma Gelmini, immaginare che sindacati e sinistra possano manovrare le masse dei pensionati, con cui sono anche molto più capaci, perché i sindacati ormai in Italia rappresentano quasi soltanto pensionati, al governo fa molto paura. Il governo però ha il dovere di mettere da parte la scaramanzia, se una proposta ha senso va approfondita e semmai va anche difesa fino in fondo. Assolutamente, grazie a Giancarlo Quenzi, direttore dell'Occidentale.it, 18:52, primi ascoltatori della serata. Iniziamo con l'Abruzzo questa sera perché si è votato, ci sono già i primi risultati. Emiliano da Pescara, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, buonasera. Dica. Volevo dire questo, se ho ben capito come funzionava il sistema dell'elezione dei sindaci. Un sindaco che si candida e viene eletto per 5 anni, no? Sì. È possibile che poi metta per andare a ricoprire un altro ruolo, tipo come ha fatto Veltroni, tipo come ha fatto Gianni Chiodi in Abruzzo? E quindi queste elezioni fatte anticipatamente, chi le paga, visto che stiamo parlando di tutti questi sprechi di politica? Lei dice dovrebbe essere impedito che un sindaco in carica si dimetta per correre ad un'altra elezione. Seri, cioè se uno sta male, se uno c'ha dei problemi, cioè si dimette per andare a fare un'altra cosa, e quindi noi stiamo pagando delle elezioni sopra elezioni, e soprattutto con quello che è successo in Abruzzo, fermo restando che Del Turco fino a quando non viene condannato, per l'amor del cielo, però comunque si è dovuto dimettere Macchioni, ma anche altri sindaci si sono dimessi per andare a ricoprire un ruolo che sappiamo benissimo che cosa è successo in quel No, Emiliano, lei la ringrazio, non è un'osservazione peregrina la sua. In Italia spesso c'è un balzer di poltrone, lo dico... Lo chiamo valzer di poltrone, che è un'espressione terrificante un po' per capirci. È come quando ci si dimette dal Parlamento europeo per correre alle elezioni nazionali, cioè le cariche sono utilizzate per fare carriera, non tanto poi per 5 anni per fare il mestiere di sindaco. È vero, non c'è dubbio. Adesso, senza applicare questa regola al caso Chiodi, che è ancora sindaco di Teramo. È così, però non riguarda certamente solo il caso Abruzzo. Roberto ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, la ringrazio per avermi telefonato. Le ho mandato un'email, non so se ha avuto modo di leggerla. Non ricordo, dica pure qual è il suo intervento, Roberto. Allora, il mio intervento è questo: io e lei ci sentivo 2 anni fa, io sono un tassista di Roma, in merito alle famose 2000 licenze, no? Io sostenevo che era una misura eccessiva, cioè 2000. Sarebbero pronto? La sento, dica pure, prosegua. Mi sta guidando, che era una misura eccessiva che avrebbe portato a me un grosso danno economico, ma soprattutto perché io, come le dissi all'epoca, la contropartita che proponeva il comune come vantaggio alla categoria non l'avrebbe mai realizzata. Quindi io la chiamo per denunciare questo, cioè il fatto che sono uscite le 2000 distribuite a pioggia, poi immagino lei avrà anche letto cosa è successo poi. Sì. Consegnandole, non ho paura a dirlo, anche se potrei avere dei problemi, a un migliore di delinquenti che praticamente non fanno i tassisti ma derubano la gente. Roberto, qual è la sua protesta? Che cosa è che non le va bene di queste 2000 licenze in più di taxi date dal comune di Roma? Che quella che era miglioramento del servizio non è avvenuto, anzi è peggiorato. Guardi, io sono stato a Roma di recente e mi sembra che ci siano più taxi. Ho condiviso questa mia impressione con alcuni suoi colleghi, io prendendo dei taxi, e è vero, mi hanno detto c'è più disponibilità di taxi in giro per Roma, mi sembra una cosa positiva per l'utente. Lei dice si guadagna di meno, può darsi che si guadagni un po' di meno rispetto a prima, o no? Io non dico un'altra cosa, che il servizio non si migliora solo perché ce ne sono di più. No, ma si migliora anche in un altro modo, con le corsie preferenziali, con il traffico, con le cose, non c'è dubbio. Ma lei è venuto a Roma, questo l'ha visto? Ma guardi, è difficile rendersi conto in pochi giorni di quello che sono purtroppo in Italia queste cose non avvengono in un minuto. Cambiare la struttura di una città e il traffico di una città sono progetti di lungo periodo. Roberto, la ringrazio. TG3. Confermata la frenata sui prezzi grazie ai carburanti, ma pane e pasta restano molto cari. La UE all'Italia a diminuire le tasse sui redditi bassi. Ma il tempo torna alla preoccupazione, neve al nord, temporali al sud, il Tevere è sempre sotto osservazione, il TG3 tra gli sfollati. Pedoni travolti sulle strisce, un morto e due feriti a Modena, un ciclista ucciso a Lecce, Cesano Maderno, sale a 2 il numero delle vittime. Napolitano e gli imprenditori, non dobbiamo nascondere le difficoltà della crisi, ma per reagire servono volontà e coraggio. Veltroni incontra Fini e rilancia la proposta di una commissione bipartisan sulla giustizia, no di Alfano, il PDL non servono nuovi organismi. Attesa per i risultati delle elezioni in Abruzzo, in corso lo spoglio, il primo dato riguarda l'affluenza, forte calo rispetto a 3 anni fa. Rischia 7 anni di carcere il giornalista iracheno che ha lanciato le scarpe contro Bush, manifestazioni in favore in tutto il paese. È morto l'attore tedesco Horst Tappert, per 25 anni l'ispettore Derrick della TV, la serie è trasmessa in 120 paesi. Allora, c'è un dato che riguarda l'Abruzzo, 279 sezioni, 51,23% per Chiodi, 41% per il candidato di Partito Democratico Italia dei Valori e Sinistra, che si chiama Costantini, un trend che mi pare essere confermato a mano che avanza lo scrutinio. Sentiamo anche il riassunto di Sky TG24. Alcol alla guida, giro di vite, alla Camera pronta una proposta di legge. Crisi economica, nuovo invito alla fiducia da parte del presidente Napolitano. L'Unione Europea all'Italia, meno tasse sui redditi bassi, inflazione in calo a novembre. Piano anticrisi, possibile sblocco per tariffe di luce e gas, più fondi per la cassa integrazione. Regionali in Abruzzo, vince l'astensione, 17 punti in meno, in vantaggio il PDL. Riforma giustizia, governo e maggioranza bocciano il tavolo proposto da Veltroni. Il maltempo non dà tregua, neve al nord, pioggia al centro-sud, allerta per l'Aniene. Bush in Afghanistan, Baghdad in piazza per il giornalista che ieri gli ha tirato le scarpe. TV, addio all'ispettore Derry, che è morto, Horst Tappert, aveva 85 anni. Milan Gattuso operato, ne avrà per 5 mesi, niente intervento per Kakà. Ha detto che ieri ha telefonato dalla casa. Beh, insomma, alla fine una delle cose più belle era certamente questa sigla che ricordate tutti, e la voce, il modo di interrogare, cose ad altri tempi, cose della mia generazione, che per carità non è troppo lontana, però una delle notizie del giorno è sicuramente questa, 800 24 00 24. E non so se ricordate, c'è stata anche una straordinaria parodia in un programma che si chiamava Stracult di Max Tortora e Max Giusti. Può sembrare irriverente, però oggi, nel giorno della morte di Tappert, è il caso di farla riascoltare. Harry, chi è meglio, io o Kojak? Lei, ispettore. Si vede il tupè? Ma, ispettore. Bravo, Harry. Harry, ma che è sta sigla così squallida? E questo è il fonico, ispettore. Ma deve partire alla fine, non durante il telefilm a cazzo di cane. Ma che ha fatto? È brutta, che è Augusto Martelli che ha fatto? Comunque, ispettore, adesso ci ha chiamato il guardiano del faro, ce ne fa una nuova per quest'altra settimana. Pronto? Come? Bisogna rifare la fiancata? Ma vattene a... Era il carrozziere, Harry, del preventivo della macchina. Harry, come si chiama il telefilm? Ispettore Derrick. Ecco, se potevi ricevere la telefonata del carrozziere, si chiamava ispettore? Harry. Mo, scazzito, devi stare, no, devi dare il numero, giro. Vabbè, insomma, era straordinaria anche secondo me questa parodia, e la sigla invece era bellissima. E torniamo alla politica naturalmente e ai fatti del giorno, alle notizie del giorno, perché una polemica finita ormai, l'ha tirata fuori Renato Brunetta, no, lui ha tirato fuori una proposta, in realtà la polemica l'hanno fatta gli altri, il ministro della funzione pubblica, perché nel fine settimana ha detto, insomma, non sarebbe una cosa così folle parificare l'età pensionabile degli uomini alle delle donne a quella degli uomini. Sentitelo. Noi abbiamo una sentenza della Corte di Giustizia a cui dobbiamo rispondere, che riguarda sulla perequazione dell'età di pensionamento tra maschi e femmine a partire dalla pubblica amministrazione. Stiamo ragionando a questo riguardo, l'obiettivo non può che essere quello di pareggiare l'età di pensionamento. Apriti cielo, polemiche, bisogna fare prima altro, le donne sono discriminate in Italia, gli stipendi non sono gli stessi, non ci sono gli ammortizzatori sociali, classico tipo di benaltrismo che porta inevitabilmente all'immobilismo. Renata Polverini, una dei principali leader sindacali. Il ministro Brunetta evidentemente è già stato smentito dal Presidente del Consiglio, che ieri ha detto che non è opportuno intervenire di nuovo sulle pensioni, tantomeno equiparando l'età delle donne che già sono in sofferenza per entrare, per permanere e per reinserirsi nel mercato del lavoro. Semmai occorrerà occuparsi delle donne che fanno figli in età lavorativa, attribuendo loro un bonus previdenziale per consentirgli, su loro richiesta, di andare in pensione alla stessa età oppure uscire prima con un assegno pensionistico magari un po' più alto. Un tema comunque che è trasversale, ci sono perplessità nella maggioranza, lo stesso Berlusconi, il ministro Sacconi, e invece posizioni di apertura da parte del Partito Democratico. Emma Bonino, per esempio, da tempo è convinta che si debba fare un passo in questa direzione. Penso che l'idea di mandare in pensione le donne qualche anno prima come risarcimento di tutte le discriminazioni che soffrono nella vita lavorativa, cioè lo status quo, è una pessima idea. Penso che le donne hanno bisogno di essere equiparate, certo, nella pensione, ma equiparate quando devono combinare lavoro e figli, in un paese che non ha asili nido, che non ha reti di assistenza e in cui l'accesso delle donne al mercato del lavoro è veramente penoso. Quindi sì all'equiparazione, ma anche all'equiparazione dei salari e delle carriere. Questa è Mabonino, 800 24 00 24. Intanto in questi minuti c'è una clamorosa polemica da parte della regione Lombardia nei confronti di Trenitalia, addirittura il Pirellone contro Frecciarossa. Come sapete, Frecciarossa è il nuovo treno ad alta velocità delle Ferrovie dello Stato. Siamo pronti a fermare l'alta velocità. Formigoni, non siamo soddisfatti. Cattaneo, che è l'assessore dei trasporti della regione, disagi per i pendolari, pronti ad azioni clamorose. Secondo la regione Lombardia, infatti, le cose non hanno funzionato come dovevano e molti treni dei pendolari hanno subito ritardi, addirittura cancellazioni per la precedenza da dare al supertreno delle Ferrovie dello Stato. Tutte cose naturalmente da verificare, da vedere. Poi in Italia ci sono sempre difficoltà ad accettare le cose nuove che partono e che inevitabilmente portano poi delle difficoltà, almeno nella fase iniziale. Si vota in Abruzzo, ma non scordiamoci di come andarono le cose e perché poi alla fine si è andati alle elezioni anticipate. Del Turco, in un ex governatore arrestato, poi dimissionario, in un'intervista al Corriere della Sera di ieri, se non sbaglio, ha detto: beh, alla fine credo che potrei accettare una candidatura, non escludo di candidarmi col PDL alle europee. Più o meno ci aveva detto la stessa cosa in una nostra recente intervista. Ma io ho sentito un mucchio di gente, addirittura il direttore dell'Unità dice che Berlusconi ha fatto questa cosa in realtà perché mi ha già offerto un seggio al prossimo Parlamento europeo. No, conoscendolo, lei non si candiderà al Parlamento europeo. Lascia stare quello che farò. Sono rimasto ancora indietro, evidentemente, perché pensavo che Del Turco non si potesse candidare con il PDL, ma evidentemente il carcere cambia molto le persone e le esperienze possono portare anche a queste decisioni. Cose abbastanza ragionevoli che ho sentito durante la trasmissione di Fazio, credo ieri, ospite Gad Lerner, all'unisono Lerner-Fazio: aboliamo la commissione di vigilanza RAI. Perché mi hai chiamato? No, così per parlare, adesso te lo dico. No, ma prima una commissione, una cosa. Parlamentare di vigilanza. Ma figurati, cose d'altri tempi. Ma io sono anziano, cose d'altri tempi. Aboliamola. Guarda, per me. Aboliamola per me, risponde Fazio. Chissà se prima o poi succederà qualcosa da questo punto di vista. Torna a far parlare di sé, anzi parlano di lui i giornali, in particolare Il Sole 24 Ore. Luca Luciani, ricordate, manager molto bravo in Telecom, che se ne uscì con il Napoleone che trionfò a Waterloo. Oggi non parlo di Alessandro, parlo di Napoleone. Napoleone a Waterloo, una pianura in Belgio, fece il suo capolavoro. Tutti lo davano per fatto, per cotto, per la supremazia degli avversari. C'aveva cinque grandissime nazioni contro, delle forze in campo. Però strategia, chiarezza delle idee, determinazione, forza, Napoleone fece il suo capolavoro a Waterloo. Allora, le facce scettiche, le facce di... non servono un cazzo. Questa è una delle aziende più belle che esiste al mondo. E allora, forte di questa convinzione, noi dobbiamo dimostrare che questo è un fatto. Piangersi addosso non serve assolutamente a niente. E come nel momento duro, dagli spalti la gente ti dice la squadra non gira, non corrono. Bene, correte di più, stringete i denti, prova di carattere. E allora dagli spalti vi applaudiranno, perché voi andrete e segnerete, come fece Napoletone. Napoletone e Luca Luciani, che sarebbe vicino alla nomina di numero uno di Team Brasil, una nomina molto importante. Subito gli interventi degli ascoltatori, andiamo a sentire qualche donna, probabilmente sulla questione delle pensioni. Anna Maria da Perugia, buonasera. Buonasera. Sono contenta di aver atteso un po' al telefono, perché così mi sono sbollita, se non è un termine molto italiano, per farti... Perché? Era arrabbiata? Sì, arrabbiata, non solo con Brunetta, ma un pochino anche con lei, che stimo tantissimo, perché ho sentito che lei era favorevole a questa cosa. Assolutamente sì, assolutamente. Benissimo, sì. Io le dico invece perché non sono favorevole, ho 53 anni e penso che per quanto riguarda la posizione della donna nella società italiana, forse per un vezzo culturale folcloristico, è demandato tutto il peso della famiglia. Di conseguenza, quindi, prima di fare una proposta del genere bisogna modificare la società, attivare gli ammortizzatori sociali, che secondo me mancano, e poi così ne riparliamo tra 20 anni. No, ma intanto mettere le basi per, cioè, si fa presto, come dire, praticamente arriviamo a fare le corse a ostacoli senza allenarci. Dobbiamo prima vedere, praticamente fare una specie di diagnosi, poi a questo punto anche la terapia, perché altrimenti così si fa presto, si fanno soltanto dei rumori per nulla. Beh, certamente c'è una volontà con questa proposta di risparmiare del denaro, magari poi da reinvestire nel welfare, nel cosiddetto sistema di protezione sociale, ma al di là di questo io credo che sia una questione proprio di impostazione e di modo di ragionare. Non sto dicendo che il suo modo di ragionare è sbagliato, Anna Maria, però quando si fa una proposta, invece di considerare quelle che le sono la proposta in sé, si dice sempre però bisognerebbe fare qualche altra cosa prima, e allora bisognerebbe cambiare la società, come dice lei, magari arrivare più o meno a stipendi parificati, perché la media dello stipendio di una donna è inferiore a quella degli uomini, eccetera eccetera, e così però non si arriva mai a nulla. Questo è un po' il timore, no, Anna Maria? Non condivide? Lei che, no, lavoro, lei che lavoro fa? Io sono farmacista. Sì, cioè sono libera professionista o impiegata? Praticamente sono dipendente, quindi non sono titolare, per fare il gran distinguo che c'è nella nostra categoria. E comunque, per quanto mi riguarda, per esempio, nella nostra, diciamo, gli ordini professionali, che è un posto teoricamente prestigioso, su 103 ordini professionali, perché uno per provincia, ci sono a malapena, adesso sono in rinnovo le cariche, 10 donne, ma non perché non le votino, perché non si candidano le donne, perché hanno altro da fare purtroppo oltre alla professione, anche la casa, la famiglia e tutto quello che ne consegue. Sì, questo però cosa, perché questo impedisce di allungare di qualche anno l'età pensionabile e parificarla a quella degli uomini? Quale sarebbe il danno? Io questo non riesco a capire, non riesco ad afferrare bene, ma è una domanda. La chiusura della persona che corre per tutti, guardi, al supermercato vede donne, ai colloqui scolastici vede donne, dal d'aspetto del pediatra c'è la mamma col bambino, i congedi parentali li prende la mamma, almeno a me capita questo, forse avrò un'ottica distorta. No, ma assolutamente, io rispetto assolutamente quello che dice lei, però non mi ha convinto, la ringrazio. Grazie. Anna Maria, buonasera. La ringrazio. Caterina da Pisa, buonasera. Buonasera. Dica. Io ovviamente non condivido quello che ha detto l'ascoltatrice precedente, quindi io sarei molto favorevole proprio per equiparare l'età pensionabile a 65 anni per tutti, anche di più, perché si allunga in fin dei conti l'arco della vita delle persone, le donne vivono di più. E poi che bisogno c'è di andare prima a 60 anni, quando semmai avevamo bisogno, perlomeno io, di un aiuto prima, quando avevo figli piccoli? ora non ho più bisogno di aiuto. Caterina, posso poi lavorare fino a 65 anni e anche oltre. Naturalmente mi sento poi sana, mi sento in piena efficienza e non ci penso neppure di andare in La capisco, Caterina. Naturalmente poi ognuno misura la propria esperienza, le proprie attitudini e naturalmente il giudizio è calibrato in base a questo. Però io condivido il suo ragionamento e penso che ci siano tante donne nella sua stessa situazione. Lei che lavoro fa, Caterina? Discriminazione è mandare le donne prima. Lei che lavoro... Questa è la discriminazione. Lei che lavoro fa? Io faccio l'insegnante. Fosse per il lavoro lei... che mi piace. Quanti anni ha, se mi posso permettere? Si guadagna pochissimo. Vabbè, questo le do ragione. Se mi posso permettere, quanti anni ha lei? Io ho 59 e non ci penso neppure di chiedere di andare in pensione l'anno prossimo. Fosse per lei, continuerebbe tranquillamente fino a 65? Anche di più. Si faccia ascoltare, eh? Infatti, secondo me, chi vuole mandare le donne in pensione prima fa una battaglia di retroguardia, una cosa veramente inaudita. A me lo dice, non perché io sia una donna, ma perché la considero una battaglia di retroguardia. Infatti è una battaglia di retroguardia. E poi voglio dire che ho sempre votato la sinistra, e anche turandomi il naso, perché la destra non la posso votare, proprio per miei motivi personali. Quindi non è che sono... Però Brunetta in questo caso le... Ma caspita, quando una ha ragione, ha ragione. D'altra parte, sa che dice Brunetta? Che questo è un governo è un governo di sinistra praticamente, perché ci sono un sacco di ministri socialisti, per cui anche queste distinzioni tra destra e sinistra forse no? Ci discuterei un pochino su questi ex socialisti che insomma... Vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, Caterina, lei a 59 anni non ci pensa nemmeno lontanamente ad andare in pensione, vorrebbe... Ma che... neanche per idea. E purtroppo ci dovrà andare, mi sa, mi dovranno cacciare a pedate. La ringrazio molto. Prego, gentile. Buonasera. Eugenio ci chiama da Milano. Eccoci qui. Intanto ancora le immagini da Sky TG24 della scarpa contro Bush. Sentiamo. 227 7 anni rischia, 7 anni il giornalista iracheno. Mi sembra francamente eccessivo, per carità. Non è una cosa da poco, però insomma, 7 anni. Per una scarpa tirata contro il presidente americano, vabbè che siamo in Iraq, ci vuole ordine, però... Eugenio, prego. Buonasera, dottore. Buonasera. Vorrei intervenire sul fenomeno di Pietro in Abruzzo, che ha raggiunto e superato il 14%, a meno dai primi sondaggi. Sì. Io credo che il Partito Democratico, se fosse un pochino più umile di quanto lo è, a meno mi riferisco alla sua classe dirigente, mettendo a capo Di Pietro, che ha dimostrato in passato di avere un gradimento superiore al 60% dell'opinione pubblica, forse o quasi sicuramente batterebbe Berlusconi. Ma ho i miei dubbi, Eugenio, ho i miei dubbi su questo. Però, voglio dire, è chiaro che anche il risultato dell'Abruzzo, se poi verranno confermati i dati per quello che riguarda i singoli partiti, eccetera, è positivo per Di Pietro. Cioè, Di Pietro non pensava di vincere naturalmente, però in questo momento il personaggio principale dell'opposizione è certamente Di Pietro, non c'è minimo dubbio. Ma non dimentichiamo che il popolo italiano è un po' tollerante e un po' giustizialista, è esattamente al 50-50 a secondo di quanti scandali ci sono, e Di Pietro rappresenta il figlio del popolo, l'uomo che fa fatica a parlare, quindi la maggior parte degli italiani non si sanno esprimere, ma hanno un'opinione ben chiara, vogliono un decisionista, un uomo che faccia andare le cose come devono, che sia uno di provenienza realmente popolare, che possa far interesse della gente comune. Cioè, secondo lei queste elezioni in Abruzzo confermano il fatto che il vero leader dell'opposizione è Di Pietro, mi sembra di capire, no? E che Veltroni si dovrebbe mettere da parte, secondo me, questo è quello che penso. Adesso lei va un po' lontano, non accadrà. Lei è un simpatizzante lettore di Di Pietro? No, assolutamente, io sono da parte un osservatore. Quanto hanno paura tutti di Di Pietro, parlo sia all'interno del Partito Democratico e soprattutto al PDL, soprattutto Berlusconi. Bah. E non soltanto per io credo che la presenza di Di Pietro sia un'assicurazione a vita per Berlusconi. La ringrazio, Eugenio, molto gentile. Andiamo in Abruzzo, Massimo Pescara, buonasera. Buonasera dottore, buonasera. Sì, la ringrazio di avermi messo in collegamento. Grazie a lei di averci chiamato, dica. chiedo, faccio due domande. Uno, sentendo la radio, ho ascoltato due secondi fa, pare che Del Turco si ripresenti alle politiche europee, cambiando casacca. Guardi, è il titolo di un'intervista al Corriere della Sera, credo di ieri, in cui faceva capire che potrebbe candidarsi alle elezioni europee. No, anche in Abruzzo si sente da più voci, questo qui, anche da alcuni giornali che provenienti dal... Vabbè, vedremo. Al di là di questo, ma lui questa posizione qui perché la prende? Perché crede nella politica che sta facendo il leader del PDL o perché ha bisogno di poltrone praticamente? Guardi, questo non riesco a capire. È una vecchia questione antica come il cucco questa qua, Massimo. Cosa vuole che le dica? È questo che non riesco a capire della politica. Le due cose spesso vanno insieme, non sono così scandalose, diciamo. Probabilmente vuole continuare, lui dice vuole continuare a fare politica, una politica riformista, adesso uso le parole che ha utilizzato. Poi non so dove troverà dove troverà casa, poi bisogna farsi bisogna anche essere eletti al Parlamento Europeo, non ci sono le liste bloccate perché la legge elettorale è rimasta la stessa, dunque Del Turco i voti se li dovrà guadagnare se sarà candidato, non è un cattivo pezzo comunque, dottore della politica italiana, non seguire l'ideale, la logica di una parte politica, ma bensì dove mi fa comodo mi butto, e in Abruzzo si è risaputo, questo è successo di tutto adesso. Sì, però Massimo, io ho detto anche un'altra cosa prima, il carcere e esperienze forti come queste, che sono le esperienze di chi è stato in carcere, di chi è stato abbandonato dal suo partito, cioè non possono non essere considerate nella decisione di un uomo, di una persona. Poi un'altra domanda, ma passiamo all'altra domanda. Qualche settimana fa, dottore, ho sentito, stavo ascoltando una trasmissione televisiva di Rai 3, dove appare il segretario della CISL e dice: la democrazia ha un costo. Mi sono fermato un attimo, ho detto: due sono le mie risposte. In che contesto si va a collocare la CISL? In un contesto democratico, politico, esecutivo, perché non ha nessun potere. No, mi perdoni, già mi sono perso in queste cose qua. Che Bonanni abbia detto che la politica è un costo mi sembra una cosa abbastanza ovvia. Che c'entra? Non capisco. La democrazia è un costo. Allora, sì, mi pare una cosa abbastanza ovvia che l'abbia detto Bonanni. Abbastanza ovvia. Il potere esecutivo può avere un costo, cioè chi decide... Lui in quale contesto va a mettersi nella parte? Non lo so in che contesto lo diceva quella frase Bonanni. Questo dico io, non riesco a capire. Vabbè, lasciamo perdere. Grazie a lei. Grazie. Giulia, provincia di Rieti. Giulia, buonasera. Buonasera. Andiamo avanti. Io volevo intervenire sull'età pensionabile. Io lavorerò fino a 70 anni perché, ringraziando Dio, me lo permettono. Certo. L'ho sempre saputo e sono felice. Quindi non guarda che secondo me se si facesse un referendum tra le persone, donne naturalmente, che stanno per andare in pensione, vincerebbe di gran lunga il partito di quelle che vogliono continuare a lavorare. Secondo me... Io sono convinta che quelle che non vogliono lavorare o hanno un doppio lavoro per cui dovranno dedicarsi al secondo lavoro in nero più remunerativo, oppure lavorano talmente male, poco e niente, si annoiano, per cui tanto vale quei soldi prenderli stando a casa, perché io non riesco a immaginarmi di stare in casa tutto il giorno. Io mi sono laureata a 25 anni e ho cominciato a lavorare come un uomo sempre, quando c'erano i turni li facevo come gli uomini, ero incinta, non ero incinta, praticamente ho lavorato fino alla fine, al giorno prima del parto, e ho fatto un figlio solo, perché se avessi lasciato il lavoro per un anno come fanno le dipendenti sicuramente non avrei più trovato nessuno che stesse lì ad aspettarmi. Sono felice comunque, ho riscattato i miei anni di laurea che mi sono costati una cifra non indifferente, perché non so se la salute mi assisterà, per cui avrò sempre 6 anni in più di anzianità, ma io spero di poter lavorare fino a 70 anni e non faccio un lavoro tranquillo, faccio un lavoro usurante. Certo. Io so che mio marito oggi è andato in un'amministrazione alle 2:15. Che lavoro fa? Mi scusi. Io faccio il medico, ma non il medico. Il medico sicuramente, però faccio il medico in campagna. Per cui io sono tornata adesso, ho fatto 8 ore di studio senza mangiare, senza bere, una persona dietro l'altra, ho fatto le mie visite in campagna sotto l'acqua, sotto la pioggia. Medico di famiglia. Sono tornata, sto facendo la cena. Sono stanca, però sono contenta. spero che Dio mi dia la salute di farlo fino a 70 anni, perché io voglio farlo fino a 70 anni. Ma c'è qualcuno che glielo può impedire? No. No, la salute. No, ma a parte quello, dal punto di vista legislativo. No, diciamo. Noi possiamo fino a 70 anni. E non è perché guadagniamo tanto, perché conti fatti, certo. Lo dico sinceramente, conti fatti, benzina, affitto degli studi, segretaria, perché noi ci paghiamo tutto, io credo al netto guadagnerò forse 2000 euro al mese, ma non sono sicura, ma io lavoro 12 ore. Quanti figli hai? Uno, perché, ripeto, se avessi fatto un altro figlio non me ne sarei dovuta andare almeno 3 mesi per allattarlo, perché il primo l'ho allattato 8 mesi, certo. Ma ancora facevo le guardie, per cui mi gestivo il lavoro, mi sono sacrificata, sono arrivata a 25 anni, a 26 anni ho partorito e non ho tutele di nessun grosso genere, ripeto, se io sto male e me ne vado, si dimenticano di me e scelgono un altro meglio. Certo. La ringrazio Giulia, al di là poi spesso delle parole dei capi dei sindacati, questa è anche l'Italia vera, eh. 19.50, l'onorevole Mario Valducci, che è presidente della Commissione Trasporti della Camera, buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Onorevole Valducci, lei oggi ha fatto una proposta che in realtà è una proposta che verrà presentata da altre persone, insomma lei se ne fa in qualche modo interprete in questo caso, di fronte, non credo che sia una cosa nata dalle urgenze di questi giorni, degli incidenti che ci sono stati, delle persone che avevano un tasso di alcol superiore alla media, però mi sembra una cosa abbastanza forte, cioè la proposta è quella di stringere ancora di più le norme per quello che riguarda la guida in stato di ebbrezza, praticamente arrivando ad una soluzione molto drastica: chi beve non può guidare. Si potrebbe andare verso questa direzione, è possibile? Sì, perché abbiamo visto che le norme attualmente in vigore danno a tutti noi cittadini l'alea di dire bevo solo 2 bicchieri di vino, bevo solo una bottiglietta di birra e da una parte. Dall'altra parte abbiamo potuto rilevare che le famose tabelle che gli esercizi commerciali hanno esposto relativamente a quello che potevamo bere e non potevamo bere hanno creato più pasticci e confusione fra i cittadini che non chiarezza. Allora, quale norma più semplice? Di dire chi guida non beve, e vorrà dire che il sera in cui abbiamo intenzione di bere ci porteremo un amico che si sacrifica a turno, o prenderemo un taxi o ci faremo accompagnare con mezzi che si svilupperanno come già avvengono in altri paesi occidentali, dove ci sono tra virgolette gli accompagnatori di chi non torna a casa perché ha bevuto. Senta Valducci, abbassare la soglia fino allo 0,2, attualmente è 0,4 se non sbaglio, è 0,5, sì. Significa sostanzialmente non poter bere nulla, o sbaglio? Sì, esatto, vuol dire quello ed è, penso, un ragionamento lineare, semplice, trasparente, di fronte a delle statistiche che ci dicono che oltre la metà delle persone che muoiono, che sono più di 5.700 in Italia sulle nostre strade, la causa è il bere. Quindi il legislatore non può voltare lo sguardo da un'altra parte, deve prendere queste decisioni che possono apparire inizialmente impopolari, ma che sono utili nell'interesse della salvaguardia delle vite umane dei nostri concittadini. E naturalmente molti si chiederanno: una famiglia in gita in cui ci si ferma all'autogrillo, ci si ferma a mangiare e poi si riprende per tornare a casa, praticamente il capofamiglia o chi guida in quel caso non può bere durante quella giornata. Bisogna imporre questo tipo di cultura, lei dice. Esatto, d'altronde penso che la salvaguardia delle vite umane sia più importante di un bicchiere di vino. Senta, un'altra cosa, siccome siamo pieni di proposte che poi non vanno da nessuna parte, non lo dico di questa, non parlo di lei naturalmente, qual è la sua idea? È condivisa innanzitutto questa proposta? Quando potrebbe entrare in vigore? Guardi, io, noi stiamo discutendo in commissione trasporti, che ho l'onore di presiedere, una proposta di legge del Partito Democratico, il cui relatore è un collega del Popolo della Libertà. Quindi è un provvedimento legislativo che si è avviato, come si suol dire, in modo bipartisan, come deve essere su una problematica così importante, che riguarda tutti noi. Io ne ho già parlato con tutti i gruppi che fanno parte dell'attuale Parlamento, che per fortuna sono 5, e tutti hanno dato la loro testimonianza positiva rispetto a questa norma. Poi dobbiamo trovare anche le risorse per aumentare il numero di controlli. Eh beh, certo, perché altrimenti se si fa una cosa del genere automaticamente bisogna aumentare i controlli, che è sempre il solito problema. Ecco, però le dico questo, tutti noi paghiamo multe. Tante multe, se guardate il bilancio familiare, purtroppo negli ultimi anni questa voce di spesa è aumentata. Attualmente esiste una legge in Italia che i comuni dovrebbero usare il 50% di questi introiti per la sicurezza stradale. Noi sappiamo benissimo che non la usano. Assolutamente, la mettono allora, nel calderone del bilancio. Eccetera. Esatto, noi vogliamo concordare, il Parlamento vuole concordare con i comuni una percentuale più bassa del 50%, che io oggi ho indicato nel 20%. Ma questo 20% va nel Fondo Nazionale Vittime della Strada e viene utilizzato per migliorare la segnaletica in quel territorio e aumentare il numero di controlli. Questo sì è voler utilizzare di quel denaro. Queste nuove norme su chi beve non guida, io la sintetizzo in questo modo, quando potrebbero entrare in vigore secondo lei, facendo una previsione? Guardi, se riusciamo a portare avanti in modo con un'ampia maggioranza, a giugno potrebbe diventare legge, quindi con già il voto favorevole anche del Senato, e l'impegno della politica dovrebbe essere quello di approvare questo tipo di norme prima dell'estate, che come lei ricorderà sono il momento apicale del numero degli incidenti e chiaramente anche tra questi quelli mortali. Grazie, vedremo. Grazie naturalmente e controlleremo quello che succede in Parlamento, perché ripeto, di proposte poi ce ne sono tante, questa è molto drastica, però c'è da riflettere, potrebbe essere una soluzione. 1956 800 24 0024, Micaela da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io sono Micaela Goremonti, sono la responsabile di Azzurro Donna Lombardia, per cui le politiche femminili di Forza Italia, e saluto mi dica pure. Mario Balducci. Allora io non facciamo i saluti in radio, sennò sembra tutto combinato. appena lasciato. Vabbè, dica. Allora, Azzurro Donna Lombardia lavora da ormai un anno a un progetto, ossia la donna che non lavora. È giusto che vada in pensione alla stessa età in cui va un uomo. La donna la donna che lavora e non ha figli, la donna che ha figli è giusto che abbia un periodo di pensione riconosciuto per ogni figlio. Cioè, se non ho capito male, lei è tendenzialmente favorevole, però differenzierebbe un po' la norma a secondo delle situazioni, cioè le donne con i figli, le donne senza figli. Le donne con i figli. Stamattina ero in autobus alle 8:30 e c'era una ragazza giovane in autobus, una voce particolarmente alta, che spiegava a una babysitter, immagino occasionale, come preparare la pappa a un bambino che erano omogenizzati, per cui doveva essere molto piccolo, aveva la febbre a 39 e doveva preparargli una pappa in attesa che arrivasse il nonno a dargliela più tardi. Allora lei capisce che una donna che va a lavorare in autobus deve organizzare la pappa del figlio con una babysitter occasionale, probabilmente sul lavoro non potrà occuparsi del bambino, è sottoposta a uno stress che è ben al di là di un lavoro. Certo, lavorato. Michele, però la risposta a questa obiezione è questa, allora negli altri paesi europei le donne sono diverse, è vero che ci sono per esempio in alcuni paesi, la Francia ma anche in altri, maggiori protezioni, maggiori aiuti eccetera eccetera, e noi non li abbiamo, ma più asili eccetera, però da altri paesi, in altri non paesi non dimentichiamo che in Italia l'uomo che faceva il servizio militare aveva l'anno di servizio militare riconosciuto come pensione. Sì, ma per carità. E allora la donna che fa il lavoro doppio, il lavoro di cura, il lavoro degli anziani, ossia non siamo ancora arrivati ai lavori che sono equamente suddivisi nella coppia. Ho capito. TG5. L'Abruzzo ha votato per eleggere il nuovo governatore della regione, in netto vantaggio Gianni Chiodi del Popolo della Libertà su Costantini, candidato del centro-sinistra. Continua a nevicare nel nord-ovest e cresce il pericolo delle valanghe. Allerta della protezione civile al centro-sud. Il livello del Tevere non fa più paura. Una notte in viaggio da Lecce a Bergamo per ammazzare un marocchino di 31 anni. Ai poliziotti l'assassino confessa: ha stuprato la mia donna, l'ho ucciso per vendetta. È morto l'attore tedesco Horst Tappert. Per 25 anni ha dato il volto all'ispettore Derrick. Colto e dai modi gentili ha incarnato un nuovo genere di poliziotto. Federico, 15 mesi, viveva attaccato ad un respiratore per una malformazione. Un intervento al Meyer di Firenze gli ha ridato la vita. Farà il Natale a casa. La scuola di tango, le lezioni di cucina, le sedute col personal trainer. Per Natale si regalano anche corsi di ogni genere. Stasera e domani su Canale 5 la vita e le gesta sportive del pugile Primo Carnera. Disse: ho preso tanti punti. Bene, andiamo a sentire TG1. Abruzzo, crolla l'affluenza, alle urne solo il 53%, scrutinio in corso, in vantaggio il PDL. Inflazione annua infrenata a novembre, ma pane e pasta aumentano. Napolitano, avere fiducia ma senza nascondere le difficoltà. Maltempo senza tregua, nevicate su tutto il nord, situazione critica nel Cuneese con pericolo valanghe, pioggia al centro-sud. Rischia 7 anni di carcere il giornalista che ha tirato le scarpe a Bush, ma per molti iracheni è un eroe. Tolleranza zero per chi guida ubriaco, in arrivo una legge che abbassa il tasso di alcol consentito a 0,2 mg. Addio ispettore Derrick, che è morto a 85 anni a Monaco di Baviera, Horst Tappert, l'indimenticabile. Bene, bene, questi erano i titoli del TG1. Insomma, in arrivo una legge, come dice il TG1, abbiamo sentito prima Valducci, bisogna vedere poi, innanzitutto non se ne parla prima di giugno e poi, come si sa, il Parlamento può diventare un pantano. Allora, eravamo con Michela da Milano, voglio capire Michela, mi sembra che dal punto di vista dei principi lei sia d'accordo, poi però lei dice bisogna distinguere perché ci sono donne che hanno figli e questi figli vanno scontati, diciamo, no, dagli anni di pensione. Assolutamente sì, perché la donna che lavora è come l'uomo che lavora, ma la donna che lavora e ha figli lavora in un modo diverso, fa un lavoro più sicuramente più usurante, diciamo. Lavora due volte. Sì. Sì, diciamo che uno potrebbe rispondere, è nella natura, diciamo, è no, questa. Non è assolutamente nella natura. No, ma nel senso. No, ma io però ho sentito diverse donne. Come la dottoressa di prima. No, certo, però appunto. Fino all'ultimo giorno, ho adattato 20 mesi in tutto, non ho mai smesso di lavorare. Spero di lavorare fino a 100 anni. Certo, certo. Però questo non vuol dire che la persona che. Desidera andare in pensione, anche perché poi la pensione può essere anche una cosa bella, può voler dire, no, certo, non è la morte, insomma. Dei nipoti, ci sono persone che desiderano andare in pensione per fare altro. E allora a queste persone, secondo me, va riconosciuto quel doppio lavoro che hanno fatto. Beh, allora, se fosse così, però, Michela, è meglio far restare le cose come stanno, no? Allora, perché modificare una norma? Lei dice, se va riconosciuto quello che hanno fatto, allora restiamo con la situazione attuale, cioè 60-65. Se vogliamo fare le cose giuste, oggi ci sono tante donne che non fanno figli. Ci sono tante donne che fanno un figlio solo, spingiamo, il nostro paese avrebbe anche bisogno di più figli, per cui bisognerebbe anche aiutarle le donne, dare dei privilegi alle donne che fanno 2 o 3 figli. In Francia, quando hanno aiutato, io ci vivo negli anni 80, quando hanno aiutato per il terzo figlio le donne, con degli aiuti, con le babysitter, hanno riconosciuto lo stipendio alla babysitter come detrazione fiscale e altre cose, ma in 3 anni io ho conosciuto a scuola solo mamme che facevano il terzo figlio. Allora si possono prendere dei provvedimenti che aiutino a fare dei figli e ad allargare le famiglie. Si potrebbe cominciare anche con questo. La ringrazio, molto gentile. 20:06, Andrea da Frosinone, buonasera. Pronto? La sento, Andrea, dica. Buonasera, dottor Cusani. Intanto mi permetto di farle complimenti, anche se a lei non piacciono le sviolinate, però. No, faccia. È doveroso dirlo, diciamo, che il suo è un programma non convenzionale e molto graffiante, che mi piace personalmente. Comunque, detto questo, volevo intervenire in merito, diciamo, all'episodio che c'è stato lì in Iraq per il lancio delle scarpe da parte del Terre Foster, che a mio avviso si presta a due chiavi di lettura. Una sicuramente, diciamo, buffa, ironica. Abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti, della prima potenza mondiale, scansarsi, ecco, a me è sembrato molto buffo. Sì, a me ha colpito un'altra cosa in realtà, la faccia di Bush, che è rimasto imperturbabile, cioè rideva addirittura, si è scansato e rideva, eppure insomma eravamo in Iraq, a Baghdad, uno poteva pensare pure ad un attentato anche più, insomma, più pericoloso, qualcosa di più pericoloso di che non fosse una scarpa, insomma. È stato proprio questo. E poi la seconda era quella che come un episodio del genere, diciamo, possa, come dire, essere emblematico di quello che c'è stato lì in quella zona, diciamo, un vero e proprio disastro, a mio avviso, confessato anche da Bush dimissionario, sì. Diciamo, l'abbiamo sentito tutti quanti. C'è stato anche un rapporto di una agenzia federale, oggi pubblicato su diversi giornali, ieri negli Stati Uniti, se ne parlerà domani mattina a viva voce, per carità, insomma, si possono fare tante discussioni. Lei dice che la scarpa lanciata verso Bush è un po' la fotografia, cioè il riassunto della epopea irachena di un presidente uscente. Sicuramente, secondo me non basterà aspettare che i nostri figli leggano i libri di storia domani, diciamo, ma già questo gesto, la forza di questo gesto racconta appunto un poco tutto quanto. Ho capito, la ringrazio. Abbiamo la 7, titoli. Forti nevicate al nord e piogge insistenti al centro-sud. Tra disagi e interruzioni sulle strade, l'Italia è di nuovo alle prese con il maltempo. Ancora sotto osservazione il Tevere. Tolleranza zero per chi beve e guida. Arriva una proposta di legge che di fatto vieta di mettersi al volante dopo aver consumato anche un solo bicchiere. Sale a 2 il bilancio delle vittime dell'incidente a Cesano Maderno. Prove di dialogo sulla giustizia. Veltroni incontra Fini e rilancia la proposta di un tavolo per la riforma. Crollo dell'affluenza nelle elezioni regionali in Abruzzo al 53%. Il candidato del centrodestra Chiodi verso la vittoria. E da ultimo le vedete le immagini del lanciatore di scarpe. Ha mancato il presidente Bush per ben due volte, ma il lanciatore di scarpe iracheno, un giornalista che ora rischia 7 anni di carcere, sta diventando quasi un eroe popolare in Iraq. Daniela da Roma. Buonasera Daniela. Buonasera. Io sono un libero professionista o una libera professionista e non sono d'accordo con la signora che ha parlato prima di considerare le maternità come lavori usuranti. Oggi spesso gli uomini aiutano in casa e questo sarebbe secondo me una diminuzione, anche perché se vogliamo porci in parità con gli uomini sicuramente non bisogna considerare che noi andiamo in pensione. Per me il problema non esiste, per me io penso a una buona salute, un'efficienza ad avere il lavoro, e soprattutto bisognerebbe anche raggiungere una parità nei compensi, perché spesso non esiste questo. Certo. Certamente sì, le assicuro che io non ho 20 neanche 30 anni, ma mi è successa, sto dicendo proprio a parità, una cosa molto importante invece per le giovani, io credo che sarebbe il supporto di asili nido seri e non a pagamento, nel senso che sia uguale per tutti. Succede a Roma, io abito a Roma, sono al nord, abito a Roma, che magari entrano negli asili persone che insomma hanno lo stesso, non sono povere, e però magari a me è successo di sentire un'ausiliaria del traffico che certamente non ha un grosso stipendio, che non era entrata in un asilo per la sua bambina. Quindi la cosa, no, ma la questione degli asili è fondamentale, è naturalmente. È essenziale la questione di asili e anche di nidi, non solo di asili, perché si parla di asili, ma si parla anche di nidi, di nidi dove con il personale efficiente. Questa è proprio la cosa più importante per mettere la donna in parità. Sì, anche se non capisco, Daniela, chi dice, vabbè, allora prima bisogna cambiare la società, avere più asili nido, più scuole, più assistenza, più protezione sociale, poi forse si può pensare a allungare l'età pensionabile. Questo mi sembra un approccio sbagliato. Sì, secondo me no, perché altrimenti poi per esempio trovo che non mi piace che si aumentino i bambini piccoli con gli extracomunitari. A me fa piacere anche che siano, cioè va bene anche l'extracomunitario, ma secondo me va aiutato la donna italiana, perché spesso la donna italiana è ben aiutata, e ne parlo proprio a tutti i livelli, cioè dalla persona più semplice che abbia magari un lavoro più modesto, ma anche la professionista che magari quando è in età di lavoro, di figli, non è proprio, no, che abbia grossi. Va bene, speciali. Va bene, Daniela, la ringrazio. La ringrazio. 20:14. Andiamo a sentire Francesco da Trieste. Però grazie a Bush un dittatore sanguinario non c'è più, mi scrive un ascoltatore, perché questo eroe non ti lava le scarpe a Saddam. Un altro ancora prima mi ha scritto un messaggio di questo tipo a proposito della scarpa tirata contro Bush. Se l'avesse tirata contro Saddam sarebbe finito da un'altra parte, altro che 7 anni. Ciò non toglie che secondo me 7 anni sono una follia per aver tirato una scarpa al presidente americano, ma per aver tirato una scarpa a chiunque. Francesco da Trieste, buonasera. Buonasera. Piacere sentirla. Grazie. Ma guardi, io prima stavo in macchina con mia figlia, sto tornando a casa, ho sentito questa proposta di legge di portare a 0% il tasso del colerico, se ho capito bene. Sostanzialmente sì, cioè la proposta è questa. Mi sono arrabbiato, veramente, tanto da chiamare, anche se la sento sempre, non ho mai chiamato. Ma voglio dire, io oggi sono stato a pranzo con un cliente, abbiamo bevuto un bicchiere di vino di Cabernet a testa, sono state 2 dita di vino. E con una proposta di legge del genere io non potrei più neanche fare questo, altrimenti rischio di perdere la patente, quindi lavoro viaggiando, quindi non potrei più lavorare. Beh, dovrebbe rinunciare a questo mezzo bicchiere di Cabernet. Non mi pare, per chi viaggia e chi guida, non mi pare una follia, però, Francesco. Chi va a 100 all'ora contro un muro o travolge un mucchio di gente che sta ferma alla ferma dell'auto? Ha bevuto un bicchiere di vino o si è bevuto una o due bottiglie di whisky, magari ha problemi di alcolismo, o quindi è andato comunque oltre, ben oltre lo 0,5. Beh, certo che è andato ben oltre. Capito? Cioè, sì, però guardi, c'è una statistica, Francesco, mi scusi, c'è una statistica appena uscita dall'ospedale, da uno dei principali ospedali di Milano, adesso non ricordo quale, oggi ho letto delle notizie, un'agenzia di stampa, che riporta dei dati abbastanza ghiaccianti. Il 50% dei traumi che arrivano al pronto soccorso di questo ospedale sono provocati da incidenti stradali in cui il tasso di alcol presente nel corpo di quelle persone è sicuramente più alto della media. Naturalmente non si tratta di un bicchiere o di mezzo bicchiere, però da qualche parte bisogna iniziare un po' per invertire la tendenza, no? Mi sembra che poi è una cosa abbastanza ripetuta in Italia, per cui se c'è un problema aumentiamo la multa, no? Aumentiamo la pena, però poi alla fine non mi sembra che sia una soluzione che vada verso una risoluzione del problema, perché penso che chi beve troppo e poi non si autoregola senza mettersi a volante continuerà a farlo, perché abbiamo anche avuto episodi di cronaca di persone con patente ritirata. Mi sembra che quella persona che ha travolto e ucciso 2 ragazzi in motorino su Via Nomentana a Roma, che è stato processato da poco, era senza patente e che gli era stata ritirata. Comunque sì, no, ma questi però sono aspetti, diciamo, diversi dalla proposta che è stata fatta. Francesco, la ringrazio. Da Verona, Daniele, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, grazie per darmi la possibilità di intervenire e complimenti per la trasmissione. Grazie, dica pure. Io volevo intervenire sulla scia del radioascoltatore di prima, in merito sempre alla proposta di legge per la diminuzione del tasso alcolemico. Ecco. E mi trovo d'accordo anche un po' sentendo quelli che sono state i dati medi che lei ha citato poc'anzi, nel segnalare che non credo. E vabbè, è caduta la linea, la riprenderemo. Raffaele Cattaneo, assessore alle infrastrutture e mobilità, Regione Lombardia, buonasera. Buonasera. Assessore, che succede? L'altro ieri ho visto il presidente della regione Formigoni, non so se c'era anche lei, non credo, a bordo. Sì, c'ero anch'io. C'era anche lei, a bordo del Frecciarossa. Oggi la Regione Lombardia, leggo da alcune agenzie di stampa, vorrebbe addirittura bloccare il Frecciarossa perché sta provocando disagi in Lombardia. Innanzitutto precisiamo questa cosa del bloccare i treni, è davvero così? Beh, guardi, questa è un'immagine un po' iperbolica che però ha dietro un problema vero, che credo sia importante nell'interesse di tutto il paese e delle ferrovie, perché noi abbiamo lavorato moltissimo in questi 2 mesi con Trenitalia per riuscire a costruire un orario ferroviario per i pendolari, visto che oggi è scattato il cambio orario proprio in occasione, in coincidenza con l'avvio del Frecciarossa, sì, che rendesse evidente che il Frecciarossa non partiva sulla pelle dei pendolari. E io credo che tutti quanti possiamo condividere che alle ferrovie del nostro paese serve l'alta velocità, che è un fatto di estremamente positivo, che noi abbiamo sostenuto e sosterremo convintamente anche in futuro, ma che questo non possa avvenire sulla pelle di chi viaggia per ragioni di studio o di lavoro. Allora, dopo mesi di confronto, cosa è successo oggi? Noi abbiamo fatto un accordo che prevedeva alcune corse in più, alcune composizioni, cioè un certo numero di carrozze per i treni che caricavano più pendolari e così via, e oggi questo accordo in alcuni dei suoi punti non è stato rispettato, creando un disagio molto forte su molte linee, quella da Brescia, quella da Bergamo, quella da Piacenza, solo per fare degli esempi, che evidentemente hanno scatenato l'irritazione dei pendolari, i quali in qualche modo aspettavano al varco Trenitalia per vedere se gli impegni che avevamo assunto con loro sarebbero stati rispettati oppure no. Io credo che abbia un valore simbolico anche il rispetto puntuale di quanto abbiamo sottoscritto. Senta, ma la questione qual è? Cioè, ci sono stati dei ritardi provocati dall'entrata dei treni ad alta velocità alla stazione di Milano? Qual è la questione? La questione principale? Mi faccio due esempi di cose concrete che sono accadute. Noi abbiamo concordato con Trenitalia che i pendolari potessero usare anche gli Eurostar City per venire a Milano pagando un prezzo che è il 50% più alto di quello che pagavano prima per usare gli intercity non ci sono più, sono diventati tutti quelli che c'erano prima Eurostar City. Il primo Eurostar City che questa mattina arrivava da Brescia verso Milano è stato soppresso, evidentemente scatenando l'ira dei pendolari che hanno dovuto riversarsi tutti su un treno che aveva solo 4 carrozze anziché le 7 che avrebbe dovuto avere. E abbiamo fatto convergere gli utenti di 3 treni su un treno solo di 4 carrozze, lascio immaginare in che condizioni hanno viaggiato. E l'altro esempio? L'altro esempio è che avevamo concordato insieme anche alla Regione Emilia Romagna l'introduzione di 2 treni nuovi, uno la mattina e uno la sera, da Piacenza, che fermassero anche a Lodi e a Casalpusterlengo, da questa mattina, e i treni questa mattina non sono stati realizzati, e quindi evidentemente questo si può trattare però di problemi che riguardano i primi giorni di partenza dell'alta velocità, no? Immagino, o sbaglio? Io me lo auguro, perché se fosse così sarebbero facilmente sistemabili, e io capisco che i primi giorni ci possono essere delle difficoltà particolari quando c'è un cambio orario così significativo, ma ho voluto insieme al Presidente Formigoni mandare un messaggio forte subito, da un lato perché io credo che la pazienza dei pendolari sia veramente al limite, noi non dobbiamo giocare con l'esasperazione della gente. Questo è importante però, perché ogni tanto in qualche uscita, non parlo della sua, però ci può essere anche la volontà di accaparrarsi la simpatia dei pendolari. Ecco. Guardi, in Lombardia se avessimo voluto fare così, se avessimo voluto lisciare il pelo dei pendolari, avremmo potuto cavalcare un'onda altissima e politicamente foriera di grandissimi consensi, di quelli proprio un po' d'accatto, no? Di facile raccolta. Però quando lei dice che la regione è pronta ad azioni clamorose, che vuol dire? Ma lo dico perché alle spalle ci sono 2 mesi di lavoro in cui noi ci siamo caricati sulle spalle, io per primo, la fatica di un confronto con Trenitalia e di far accettare ai nostri pendolari un cambio di orario che modifica le abitudini di 200.000 persone in Lombardia, in molti casi peggiorandole, aumentando anche le tariffe in una serie di frangenti con l'accordo della regione dei pendolari, perché in cambio c'erano alcuni impegni che andavano rispettati. Ecco. Allora, quando uno fa un lavoro così e poi non può dire che sugli impegni che avevamo sottoscritto non si fa sul serio, perché questo è un messaggio assolutamente dirompente. La ringrazio, vedremo naturalmente cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. 20 e 24 800 24 00 24. Andiamo a Prato. Giacomo, buonasera. Buonasera a lei, complimenti per la trasmissione. Dica. Io chiamo per intervenire a proposito della crisi economica che imperversa nella nostra nazione. In particolare, essendo un commerciante, un imprenditore, io vorrei parlare della mia città e di Firenze, che è appunto vicina. Le posso dire che l'aspetto tecnico a cui mi riferisco è sostanzialmente quello politico, in quanto io nasco in una città importante che è quella di Prato, un distretto notoriamente grande per quanto riguarda l'entità tessile, probabilmente un distretto diciamo troppo monotematico dal punto di vista commerciale, e queste sono state le conseguenze. Al di là dell'aspetto propriamente imprenditoriale del tessile, anche la politica ha fatto il suo ruolo negativo, perché noi siamo stati praticamente distrutti da un'entità lavorativa straniera, la quale con regole proprie, con interessi propri, senza nessun tipo di vigilanza. Lei sta parlando dei cinesi negli anni passati. Sto parlando. Senta Giacomo, però questo ragionamento, perché ci sta facendo questo, ci sta riassumendo quello che è accaduto nel tessuto imprenditoriale di Prato negli ultimi anni? Qual è il motivo? Ma perché io in questo momento come imprenditore mi trovo purtroppo a vedere le mie finanze dirette verso altri paesi, con grande soddisfazione, con grande riconoscimento di competenza da parte di chi mi accoglie e professionalità, e riscontro le esigenze e dei cliché a cui io come imprenditore devo sottostare, che un imprenditore straniero non trova qui in Italia. Io come imprenditore italiano mi trovo ad aprire realtà commerciali in qualunque luogo del mondo, per mia fortuna, sì. E le posso garantire che la lente di ingrandimento degli sponsor, comunque del governo, delle regole, di tutto quello che possono essere le circostanze a cui si deve sottostare per poter operare in territorio straniero, sono non solo legittime da parte di chi le richiede, hanno lo scopo di tutelare il tessuto operativo e commerciale nazionale. Del luogo, accolgono solo realtà commerciali valide e remunerativamente rappresentative. Ci sono delle regole a cui sottostare che vengono vagliate giorno dopo giorno e non a distanza di anni, cosa che qui in Italia, le faccio un esempio banalissimo, ci si scandalizza di trovare di una pagina di giornale che dice ristorante cinese trovato con realtà igienico-sanitaria non ad hoc, ma non è l'interesse di una nazione chiudere un ristorante, non è su questo scandaletti da ufficio NAS che si crea. Ho capito Giacomo, lei vorrebbe maggiore protezione sostanzialmente e barriere, chiamiamole così, per alcuni settori, immagino, secondo lei troppo aggressivi, che vogliono entrare nel nostro paese. La ringrazio. Davide, provincia di Padova, buonasera. Intanto buonasera. A un terzo dello scrutinio, 50,45 per Chiodi e 41,63 più o meno, la distanza è rimasta invariata, qualche cosa in più per Costantini, un terzo dei voti scrutinati. Davide, dica. Buonasera, signor Cruciani, io vorrei intervenire sull'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di Brunetta e in linea generale non sono d'accordo a livello temporale, nel senso in questo momento credo sia inopportuno visto le condizioni economiche della nazione, ma soprattutto vista le condizioni della donna nella società e nella famiglia. Ma perché sarebbe inopportuno? Secondo me proprio in questo tempo in questi tempi difficili di crisi, come si dice, che vanno risolti alcuni nodi e vanno anche fatte scelte coraggiose. Sono anche d'accordo, da un punto di vista economico sarei anche d'accordo fare un risparmio, se poi il risparmio fosse effettivamente poi utilizzato per le donne. E cosa nutro seri dubbi su questo, perché i risparmi che sono stati fatti. Va bene, poi questo è da vedere naturalmente. No. Non è da vedere, ma ci si fa un'idea su. No, certo, l'esperienza insegna, dice lei. Sì, l'INPS è stato il calderone dove hanno attinto casse integrazione, hanno attinto tutti e oggi troviamo ovviamente con le casse molto, vuote. Ma la vera questione, direi, è un'altra. La questione è una questione economica, che ovviamente il buon Brunetta sa molto bene, essendo un buon professore di economia. E un'altra questione che è legata alla questione economica, di cui nessuno ne parla, solo gli addetti al lavoro, la questione demografica. Siamo in ambito natalizio e se uno andasse effettivamente a guardare il diagramma demografico italiano, si accorgerebbe che è fatto ad albero di Natale, dove il zoccolo, o comunque mi spiega questa cosa meglio fra poco dopo la borsa, così la approfondiamo. Sì, va bene. Qual è perché questo ragionamento la porta a dire che è sbagliato proporre l'aumento dell'età pensionabile per le donne? Ancora Davide dalla provincia di Padova, il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Davide, prego. Sì, come dicevo prima, in linea di principio sarei anche d'accordo nel fare un risparmio sulle pensioni, elevando l'età pensionabile delle donne a quella degli uomini, ma in linea temporale, cioè in questo momento credo sia inopportuno per una serie di questioni. primis la questione economica delle famiglie italiane, dopo ovviamente il sistema degli aiuti alle famiglie che è molto scarso, il sistema degli asili, tante altre cose che in questo momento comunque non ci sono, quindi andremo semplicemente a fare musina, cioè andiamo a risparmiare fondamentalmente, cioè l'idea non è quella poi di dire è una questione di parità, no, è una questione economica, perché non dobbiamo parlare seriamente dell'economia, è una questione economica legata, ripeto, a una questione demografica, noi prima o poi ci andremo, cioè sarà una questione inevitabile, perché alla fine se uno guarda la, come dicevo prima, la questione demografica e comunque il nostro diagramma demografico italiano, vede che fra qualche anno, cioè quelli della mia età che hanno 39 anni, 40 anni, quando andranno in pensione, è una quantità di gente che richiederà denaro alla cassa dell'INPS o delle varie casse sociali, previdenziali, che non, economicamente non ci sta, e quindi è ovvio che il governo sa di questo, ma non ne parla, nessuno ne parla di questa cosa. No, beh, e no, poi va... No, seriamente... No, seriamente, nella... seriamente... No, seriamente se ne parla nelle sessioni sì. di studio, sì, ma sì, non certo... Non certo nelle trasmissioni popolari. No, no, ma assolutamente lei ha ragione. D'altra parte, ripeto, l'intervento sulla pensione è uno dei più grandi tabù che c'è in Italia, no? Non c'è dubbio. La ringrazio. Stefano da Taranto. Stefano, buonasera. Buonasera. Allora, io vorrei intervenire in maniera piuttosto telegrafica, così vi occupo poco tempo, ma a proposito sempre del pensionamento delle donne. Io in primo luogo devo dire che ho sentito una persona che diceva ma ci sono mariti che si occupano poco dei figli, della casa, per cui poi magari noi donne si arriva all'età pensionabile stremate, quindi è giusto andare in pensione prima. Beh, questa è una cosa che non tiene conto quasi per niente, secondo il mio personalissimo parere, di quella che è stata l'evoluzione sociale in tutta l'Italia, forse in tutto il mondo, diciamo, civilizzato. Io mi occupo moltissimo dei miei figli, mi occupo moltissimo anche della casa quando posso. Naturalmente, siccome lavoro, sono libero professionista e mia moglie si occupa solamente dei bambini, di me e della casa, beh, è normale che se ne occupi di più di me. Però io me ne occupo e tanto, tempo libero per me non esiste, non è mai esistito e sono contento così. La mia vita è felicissima per questo motivo, proprio per questo motivo. Però questo significa che non è che poi la donna arrivi più stremata di quanto ci arrivi io alla pensione. No, certamente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, sempre a proposito di quanto diceva questo una farmacista, sì. Se non ricordo male ha fatto un intervento a proposito del fatto che sarebbe necessario prima allestire una, diciamo così, o attendere un'evoluzione sociale, asili nido e via discorrendo, sì, e poi, sì. Ecco. Io non sono per niente d'accordo per un semplice motivo, per il fatto che ritengo che un legislatore oculato debba essere un po' anche, tra virgolette, educatore, quindi non debba attendere che la società abbia preso una svolta per cristallizzarla in un provvedimento normativo. Cioè, penso che debba in certa misura anticipare i tempi e di qui si vede anche il legislatore illuminato da quello che illuminato non è. Va bene, Stefano, ho capito, la ringrazio. Grazie a lei. Maria da Lecco. Maria, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani, grazie a lei. Insomma, anche ai suoi operatori, ai centralinisti, molto gentili. Senta, io mi sono proprio, cioè sono voluta intervenire perché come operatore di polizia locale. Sì, lei è una poliziotta, sì, locale, esatto, così possiamo dire. Esatto, sì. Opero insieme, unitamente ai miei colleghi, nelle scuole, sì, per trasmettere ai giovani una cultura del movimento responsabile e consapevole. Movimento di cosa? Quindi, dunque, della mobilità, lei dice. Esatto, una cultura del movimento, proprio anche solo a bordo di un'autovettura. Sì. Quindi questo è uno sforzo, un impegno che la polizia intende sostenere. Va bene, ma allora che ne pensa di questa proposta di abbassare i limiti fino, ecco, praticamente, allora, quasi ad annullarli? Io vorrei lanciare un messaggio anche a quel signore che è intervenuto una ventina di minuti fa. È importantissimo non assumere sostanze alcoliche quando si guida. E va bene, su questo siamo tutti d'accordo. Ecco, esatto, perché spiegavo prima ai suoi collaboratori che comunque, mi ricordo, abbiamo fatto nel mese di ottobre, chiedo scusa, ma ho corso per rispondere. No, certo. Allora, c'è stata la giornata della sicurezza, sì, dove in piazza abbiamo ospitato tutti gli studenti lecchesi e ai più grandi, diciamo, abbiamo dato la possibilità di effettuare così una prova con l'alcol test e c'era l'etilometro. per cui abbiamo spiegato tutte le funzioni e ovviamente magari erano a stomaco vuoto e questo è molto importante. Comunque anche solo con un cioccolatino, mangiando un cioccolatino al liquore, sì, la prova dell'alcol test risultava positiva. Io quello che voglio capire è, lei è d'accordo per abbassare questi limiti fin quasi ad annullare? Assolutamente sì, assolutamente sì. La ringrazio, sì, molto, guardi, la ringrazio, bene, devo dare spazio ad altri ascoltatori, grazie di averci chiamato. Velocemente i titoli del TG2. Se ci sono. Abruzzo, il candidato del PDL Chiodi in vantaggio su Costantini del centro-sinistra. Soddisfatto il centro-destra, Di Pietro attacca il PD, puniti, dice i partiti dell'incertezza. L'Italia di nuovo nella morsa del maltempo, neve e pioggia provocano disagi e interruzioni su molte strade. A Roma preoccupa soprattutto il fiume Anieni. Dopo il giovane ubriaco che ha rischiato una strage e altri incidenti, è ancora vittime di pirati della strada. Pronte pene più severe per chi guida dopo aver bevuto. Vacanze di Natale, italiani in viaggio, magari più breve e al massimo in Europa. E per chi non può rinunciare ai tropici, l'avvertimento è sempre lo stesso. Attenzione alla situazione sanitaria. Bene, Giuseppe da Milano. Giuseppe, buonasera. Rapidi, sì, rapidi perché siamo in conclusione. Sì, dica. Buonasera a lei. Io volevo intervenire, non sono d'accordo con l'intervento della persona della polizia locale di prima. Sì. Mi sembra anche che si sia contraddetta un attimo nel momento in cui dice basta mangiare un cioccolatino. Sì, è vero, un po' si è contraddetta. Il test dell'alcol è superiore. Io ho 49 anni, guido, ho l'auto dall'età di 27 perché prima non potevo permettermela né tantomeno ce l'aveva mio padre. Non ho mai causato un incidente, ho preso solo due multe per divieto di sosta in tutta la mia vita. Le faccio solo un esempio, dopo tutta una giornata di lavoro io torno a casa sempre verso quest'ora, sì, bevo un bicchiere di vino a cena, se dovessi dopo cena a questo punto accompagnare mio figlio in ospedale perché sta male, rischierei la patente. Vabbè, è un caso limite questo, Giuseppe. È un caso limite, ma mi sembra di sparare. Ecco, lei è sempre stato molto ragionevole. Io sono un radioascoltatore, sì, che ha, sì, conquistato quando prima ascoltavo Zapping. E l'ho sempre sentita ragionare molto bene. Qui mi sembra che piuttosto che dare degli strumenti alla polizia e aumentare i controlli su chi veramente supera i limiti, stiamo annullando i limiti per farci sentire tutti colpevoli. Non va bene. Guardi, Giuseppe, io non lo so, se prima non sappiamo se è un provvedimento che verrà preso, perché prima al Ducci ci parlava di giugno, eccetera, per cui non si sa. Io credo che qualcosa di chiaro e anche di drastico, se davvero i dati sono quelli che conosciamo, possa servire. Poi è chiaro che può provocare delle situazioni paradossali come quelle che lei ci ha descritto. Comunque riprendiamo questa discussione domani con altri interventi e altre opinioni. La ringrazio, Massimo da Milano, Alessandro da Milano, ci diamo appuntamento naturalmente domani 18:30 alla Zanzara.